tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo qui a un nuovo appuntamento col notiziario anticlericale a cura di Pierino Marazzani. Oggi parliamo delle disgrazie della Chiesa, in particolare dei fulmini che hanno colpito direttamente preti o frati, oppure chiese e indirettamente chi c'era dentro. E il caso più famoso è accaduto a Roncole Verdi, in provincia di Piacenza, proprio dove fu colpito Giuseppe Verdi con un calcio dal prete locale. E questo stesso prete, altri tre preti e due coristi morirono fulminati nel 1828. Fulmini anticlericali. Veniamo a fatti più recenti. Nel 2018 in Ruanda 16 persone sono state uccise dal fulmine che ha colpito la loro chiesa. Nel Malawi 8 membri di una chiesa sono stati uccisi da un fulmine nel 2013 nella loro chiesa. E durante un pellegrinaggio sul Monte Ribalta, in provincia di Cuneo, ben 30 pellegrini furono ustionati, tra cui due chierici. 4 morirono per le ferite accusate. Un altro caso clamoroso, riportato dalla Domenica del Corriere del 25 luglio 1937, fu quello dei due sacrestane friulane di Cividale del Friuli che morirono fulminate mentre suonavano le campane durante un temporale. Il 17 novembre 1946 a Uggiano, Lecce, un fulmine perfora il tetto della chiesa uccidendo due donne che rimasero carbonizzate, 3 ustionate e 5 ferite. Tragedia Foggia. Morti 2 bambini colpiti dal fulmine mentre partecipavano a una processione il 17 agosto 1989 dalla Repubblica. E fatti più antichi, il 7 luglio 1929 in Austria un fulmine entrò in una chiesa e uccise una persona e 22 rimasero feriti. Nel 1868, vicino a Gubbio, un fulmine uccide il padre del parroco. Al Monte Cimone, in provincia di Modena, durante la processione, colpiti 3 fedeli, 1 è grave, partecipavano a una cerimonia religiosa, 6 agosto 2004. Maltempo, fulmine su una chiesa di Ravenna, ustionato un uomo che si trovava nel bar del circolo parrocchiale. E veniamo a Garbagnate, dove questo paesotto vicino a Milano, nel 2014 e nel 2018 è stato colpito 2 volte dal fulmine. Il fulmine sul campanile causa enormi danni. Fulmine colpisce di nuovo la chiesa durante la messa e distrugge l'impianto audio. Anche a Bollate, dove abita il sottoscritto, 2 fulmini entrarono nella chiesa e colpirono, danneggiando gravemente per 2 volte l'enorme organo tutto metallico. A Novate, milanese, dove sono nato, un fulmine colpisce il campanile, orologio fermo e campane mute nel 2013. Un fatto storico avvenne nel 1561 a Londra, la grande cattedrale di St. Paul, che allora aveva un'enorme guglia di legno, fu completamente incendiata dal fulmine e da allora si decise di fare una cupola di pietra. Fulmini anticristiani. Il famoso Cristo Re di Rio de Janeiro è stato colpito dal fulmine e mozzato il pollice destro. Un fulmine anticlericale colpisce e distrugge la statua della Madonna della Chiesa degli Agostiniani a Scorrano, in provincia di Taranto. Un altro fulmine nel 2014 colpisce la chiesa appena restaurata di Cividella del Tronto, vicino a Teramo. Temporale a Santa Maria Capo Vetere, un fulmine fa crollare addirittura il campanile nel 2012. Grosse pietre sono volate fino a 100 metri di distanza, chiusa al transito tutta la zona vicino alla chiesa di San Nicola a Mistretta, Messina. Boato fortissimo e crollo terribile, grosse pietre e calcinacci. Ho una bellissima immagine a colori apparve sul Corriere della Sera del 27 dicembre del 2015 e un fulmine distrugge il santuario vicino a Santiago di Compostela. A Monte Cerboli un fulmine ammutolisce le campane in provincia di Livorno. Un fulmine irriverente colpisce in pieno il campanile della chiesa e zittisce le campane nel 2013. A Maslianico fulmine abbatte la croce della chiesa. Siamo nel 2012. E concludiamo con questo fulmine che incenerisce niente poco di meno che un'enorme statua di Gesù Cristo di polietilene, insomma di materiale plastico, nell'Ohio nel 2010. Saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale.